la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16.30 primi 40 secondi in diretta da Milano. Oscar Giannino vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, visto che anche oggi la puntata nasce da vostre segnalazioni. Nasce per chi ha ascoltato quella di venerdì, anche in riparazione di un errore tecnico di cui mi scuso ancora, che abbiamo commesso venerdì, e quindi noi ripariamo con questa trasmissione a entrambe le cose, perché venerdì non abbiamo mandato in onda, colpa nostra, un'impresa che si occupa, rappresentante di un'impresa che si occupa di casette di legno, quindi stiamo parlando di casette di legno per il post sisma, per i terremotati, e questo faceva seguito a una segnalazione di un ascoltatore che aveva sentito la nostra trasmissione in relazione a quello che a mio giudizio è un caso molto grave, cioè quello della vittoria della gara per 1,1 miliardi da parte di CNS, un gigante della cooperazione, che è una gara che viene tenuta ancora valida. Vedremo cosa ci dirà su questo l'autorità anticorruzione, perché stamattina ai nostri microfoni un commissario dell'autorità anticorruzione, Corradino, ci ha detto che stanno esaminando il caso, perché di fronte alla condanna dell'antitrust, quella cooperativa è ribadita anche dal TAR del Lazio, dovrebbe, secondo logica, partire un'autotutela, per cui non è affatto detto che il risultato di quella gara dovrebbe essere confermato, come hanno fatto altre parti della pubblica amministrazione verso quella stessa cooperativa. E allora alcuni di voi ci hanno segnalato appunto che sia il prezzo di aggiudicazione di quella gara per 1,1 miliardo, stiamo parlando di 1076 euro a metro quadrato per casette di legno, sia i tempi, che sono molto lunghi, si prevedono molto lunghi per le casette di legno, non tornano rispetto a soggetti che sono presenti sul mercato. Sono presenti sul mercato e quindi hanno, da questo punto di vista, c'è di che riflettere sia su quel prezzo, sia sulla gara in sé, sia sui tempi. Poi quello che è successo venerdì è che abbiamo in realtà, per nostro errore appunto, chiamato un altro ascoltatore che sentiamo comunque oggi, in relazione a un problema completamente diverso, un'iniziativa dal basso animata per il tentativo di favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, quindi stiamo parlando a chi ha perso il lavoro, visto che viviamo in un paese in cui le politiche attive del lavoro lasciano molto, purtroppo, molto molto a desiderare, visto che la parte delle politiche attive del lavoro del Jobs Act, cioè la famosa agenzia nazionale per il lavoro, quella che doveva innovare profondamente gli uffici provinciali del lavoro, che intermediano poco più del 2% della domanda e offerta del lavoro per chi si trova disoccupato, per il momento è ancora nel limbo. E allora c'è chi dal basso ci ha segnalato di aver dato vita ad un'iniziativa e quali sono i risultati. Molto interessante secondo me comunque sentire che c'è chi dal basso si sostituisce a delle mancanze pubbliche di questo rilievo e che spiegano in gran parte poi anche i 2 milioni di giovani net né alla ricerca di un lavoro né in percorso di formazione scolastica e i bassi tassi di partecipazione giovanile al mercato del lavoro. Sapete che in realtà anche il Jobs Act ha portato effetti soprattutto per gli over 50, mentre il tasso di occupazione per i giovani e anche per la fascia centrale 35-49 anni è abbassato, non si è alzato ma è diminuito. Cominciamo però con la prima parte, appunto, perché abbiamo con noi Bruno Dalle Pezze, il direttore vendite di Rubner. Rubner è un'eccellenza italiana, per capirci vince gare in tutto il mondo, ha da poco vinto una commessa a 10 milioni di euro per costruire una parte del secondo aeroporto dei Filippini in legno, ha realizzato già 20.000 case in legno in tutta Italia, e è molto interessante questa segnalazione perché ci consente di fare un ragionamento sia sui prezzi comparati dell'aggiudicazione dell'asta da parte della Consip per 1,1 miliardi, ripeto 1076 euro a metro quadrato, sia per i tempi della messa in posa di queste casette di legno che si annunciano lunghi per il terremoto con l'inverno che è già avanzato. Quindi innanzitutto cominciamo con Bruno Dalle Pezze, che appunto è direttore vendite di Rubner. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. Allora, ci spiega un secondo nella vostra esperienza cosa realizzate che potrebbe venire a fagiolo per la situazione terribile dei tre sismi da agosto a oggi che si sono verificati in centro Italia, i prezzi e i tempi? Ma diciamo, se parliamo di gruppo Rubner, parliamo di un insieme di grosse aziende che diciamo ognuno nella fattispecie ha un suo settore di intervento. Io sono direttore vendite per quanto riguarda la Rubner House, dove facciamo case prefabbricate, sì, sia con l'anima completamente in legno massiccio o in lamellare, oppure anche la soluzione pannello. Lì praticamente copriamo tutto il mercato che si riferisce all'abitazione singola o piccoli condomini, eccetera. Sì. Poi abbiamo altre aziende come la Rubner Holzbau, dove facciamo grosse coperture, capannoni, strutture industriali, eccetera. E una terza azienda del gruppo che è la Rubner Objektbau, dove abbiamo realizzato anche strutture, la casa dello studente all'Aquila, eccetera, dove facciamo strutture, grosse strutture chiave in mano, sì, come diciamo è il nostro general contractor. Sì. Per cui praticamente noi possiamo coprire qualsiasi tipo di richiesta che ci venga da una zona che ha dei problemi. Che ha avuto dei problemi, appunto. Che ha avuto dei problemi. Diciamo, voglio precisare che come Rubner House questo è il quinto terremoto che noi, a cui noi siamo presenti. Siamo partiti dal terremoto del Friuli, dove abbiamo realizzato dei villaggi interi, dei quali alcuni esistono ancora. Basta parlare col comune di Spilimbergo, eccetera. Andando avanti con l'Irpinia, con le Marche. Comunque, insomma, è un grande gruppo, sì, internazionale, 22, esatto, sedi in tutta Europa, 31 società che, esatto, fanno parte del gruppo Rubner, 90 anni di esperienza con il legno, esatto, 1500, esatto, e più collaboratori in Europa. Esatto. Ok. E cosa, che tempi, cioè, voglio dire, dal momento nel quale si verifica con un vostro cliente, si rivolge al gruppo Rubner e dice: io avrei bisogno di una casetta in legno, eccetera, eccetera. Quanto tempo passa per capirci? Ma guardi, diciamo che partiamo dal momento in cui noi abbiamo la base pronta, cioè il cliente ha realizzato il basamento in cemento con un'impresa del posto, perché naturalmente se non c'è questo basamento noi non riusciamo, certo, a consegnare e a montare la casa. Diciamo da quel momento lì, noi nel giro, diciamo quando siamo molto molto veloci, se ci sono interventi come in questo caso che dovrebbero essere velocissimi, diciamo le prime case riusciamo a consegnarle nell'arco di 3-4 settimane. Mm. E naturalmente iniziamo il montaggio. Noi abbiamo oltre 30 squadre di montaggio, per cui siamo in grado di soddisfare anche un numero abbastanza elevato di queste costruzioni. Voglio precisare che noi attualmente siamo già nelle zone terremotate, perché noi abbiamo sempre lavorato in quelle zone. Attualmente abbiamo 5 nostri cantieri aperti e stiamo montando costruzioni di edilizia civile, diciamo, per i nostri clienti. Certo, per i vostri clienti. Ma sì, non avete partecipato però a quella gara Consip? No, non abbiamo partecipato a quella gara. Le motivazioni non gliele so dire esattamente, perché non la seguivo io personalmente. No, ma è solo per far capire ai nostri ascoltatori, sì, che non è un intervento di rivalsa, perché avete perso. No, non c'entra assolutamente nulla. No. Oh, quanto a quel prezzo di aggiudicazione, cioè poco meno di 1.100 euro a metro quadrato per case e casette in legno che sono naturalmente temporanee, cioè non è un'edilizia permanente in legno, capite per gli ascoltatori, ma adesso ce lo facciamo spiegare meglio, che la dotazione di servizi e di finiture è molto diversa per una casa in legno permanente piuttosto che una invece di emergenza. Su quel prezzo, dal punto di vista di quelli che praticate voi, che osservazioni le vengono? Ma guardi, è difficile fare delle osservazioni su quel prezzo, perché esattamente non si sa come vengono fornite queste strutture. Da quel poco che sappiamo che una parte sono a struttura portante in metallo, con dei rivestimenti, con dei tamponamenti non ben specificati, almeno non ci sono delle caratteristiche tecniche ben precise. Per cui è difficile dire quel prezzo lì è un prezzo troppo basso, troppo alto. Bisognerebbe conoscere particolari, esatto, del dettaglio, esatto, della gara, del capitolato. Esatto. Perfetto. Diciamo che per esperienza e anche per tutti i terremoti a cui abbiamo contribuito, a cui abbiamo fornito delle strutture, le nostre strutture o gran parte delle nostre strutture, se hanno avuto una manutenzione normale, sono ancora in piedi. Tanto è vero che si vedono anche dalla televisione alcune strutture anche nella stessa Norcia, che sono nostre strutture che hanno oltre 30 anni. Cioè, che è costruite dopo il terremoto dell'85. Esatto, esattamente. Oh, ma se andiamo a vedere a quei prezzi praticati allora, quelli però un riferimento possono rappresentarlo? Nell'85? No, naturalmente uno fa la rivalutazione a prezzi costanti, ma siamo in quell'ordine di grandezza. Sa perché glielo dico? Perché ci hanno chiamato e noi abbiamo mandato in onda testimonianze di imprenditori, in questo caso del ramo edilizio, in particolare un imprenditore immobiliare di Ascoli Piceno, che ci ha chiamato venerdì e ha detto: guardate che io in realtà non riesco a vendere ad Ascoli Piceno case che offerte, stiamo parlando quindi di immobili permanenti, muratura, cemento e così via, e non riusciamo a vendere a 1200 euro al metro quadrato. Allora lei capisce che per chi ascolta e non è del settore dice: ma insomma, ma com'è possibile? Ma diciamo, si sa che è ormai da qualche tempo che il mercato dell'edilizia è saturo, cioè esatto. Ci sono talmente tanto invenduto che i prezzi sono calati. Poi cosa si può dire? Che le varie imprese, i vari imprenditori hanno costruito una volta senza aver venduto. Praticamente costruivano, facevano una grosse costruzioni con molti appartamenti e poi li mettevano sul mercato. Ma se dovessimo dire al vostro listino prezzi, dal modello più semplice a quello invece, su che ordine di grandezza siamo? Ma diciamo che i nostri prezzi nel modello, diciamo per i clienti normali che vanno a costruire case d'abitazione, viaggiano intorno ai 1200-1300 euro al metro quadrato fino a salire a 1500-1600, dipende dal tipo di rifinitura eccetera. Parliamo però di costruzioni singole fatte ad hoc su progetto. Esatto, mentre in questo caso stiamo parlando di una gara d'asta per 1.1 miliardi, quindi uno immagina che ci siano anche sinergie di prezzo rispetto ai volumi e ovviamente non con realizzazioni ad hoc caso per caso. Sicuramente, però lì bisognerebbe conoscere bene il bando e sapere che cosa è richiesto. Ecco, allora io intanto ringrazio Buono delle Pezze per averci dato questi dati. Vi invito a riflettere innanzitutto su una cosa. Primo, i tempi in realtà, una volta che c'è la gettata di cemento base, sono di pochissime settimane per chi ha il magazzino ovviamente pronto, cioè non si tratta di iniziare da capo la realizzazione delle parti necessarie in metallo e in legno per la realizzazione delle casette. Vedremo quali saranno i tempi. Secondo, sul prezzo bisognerebbe saperne di più, però io mantengo il mio punto interrogativo semplicemente come giornalista per darvi un servizio rispetto a come si è arrivati a quel prezzo per una gara da 1,1 miliardi di euro. Grazie quindi a Bruno Dalle Pezze e andiamo invece al nostro secondo ascoltatore. Questo nostro secondo ascoltatore è già non la prima volta che ci segnala un esperimento, come lo vogliamo chiamare, un'iniziativa, a me piace più chiamare un'iniziativa, dal basso di fronte al problema della elevata disoccupazione, e resta elevata perché siamo comunque all'11,7%, 11,7, cioè in Germania è la metà per capirci, la disoccupazione fortissimamente concentrata poi nella fascia giovanile, bassa partecipazione al mercato del lavoro anche femminile, e a parlarci di questa iniziativa per spiegare in che cosa consiste, A, B, anche per consentire a chi di voi fosse nella, ohimè, disagiata condizione di non riuscire a trovare un nuovo lavoro, come entrare in contatto con questa iniziativa, è appunto uno dei suoi animatori in questi anni. Si chiama Progetto Job Club, per intenderci, ed è Riccardo Maggiolo che ce ne parla. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio Giannino, grazie dell'invito. Allora, lei è un formatore e comunicatore sui temi della ricerca del lavoro e del digitale, oltre ad avere naturalmente anche professionalità ed esperienza di giornalista. Questa idea, innanzitutto ci dica come è nata e chi l'anima, e poi ci dica che tragitto ha avuto e che risultati di questi ultimi tempi. Beh, dunque, molto brevemente, è nata 3 anni e mezzo fa ormai dall'incontro di 2 vicentini, uno sono io e l'altro è Nicola Giacconi, che uno psicologo del lavoro. Io sono rimasto molto colpito quando l'ho incontrato delle idee che Giacconi promuoveva, e diceva sostanzialmente: perché si cerca lavoro da soli, in realtà la ricerca del lavoro è uno sport di squadra. E io gli dissi: questa mi pare un'ottima idea per fare un sito e aiutare le persone a cercare lavoro insieme. Lui mi disse: basta che lo facciamo gratuito per tutti, e ha detto: sfonda una porta aperta con me. E quindi abbiamo cominciato con questo esperimento sociale o iniziativa, come diceva lei, è anche solidale un po', 3 anni fa. Come funziona il nostro servizio? In brevissimo, praticamente le persone vanno sul nostro sito, si registrano, formano dei gruppi sul territorio tramite una mappa di 10-12 persone, 8, insomma questo è l'ordine di grandezza più o meno, e decidono di trovarsi fisicamente insieme. Quando sono almeno 6 persone possono scaricare un manuale che è stato scritto in parte da me, in parte da Nicola Giacconi, con il contributo di qualche altro esperto tra l'altro, e per 10 incontri seguono questo manuale e cercano lavoro insieme. Ci sono degli esercizi da fare insieme, ci sono degli esercizi da fare a casa, c'è una parte di, come dicono in inglese quelli bravi, di networking o di scambio di contatti e di informazioni, e si cerca lavoro insieme. Di solito si fa un incontro a settimana. Ne sono nati tanti in tutta Italia, questa è un'esperienza che ancora non ha fatturato nulla chi c'è dietro, ci sono io principalmente adesso e Nicola, che è l'altro fondatore, rimane un po' il nome tutelare, diciamo così. Lo stiamo cercando di portare in tutta Italia. L'esperienza più interessante, forse più importante che abbiamo avuto è stato col Comune di Milano, con cui abbiamo fatto 2 sperimentazioni. Allora aspetti, io la interrompo perché ce lo spiega dopo il traffico. Devo dire a chi sta chiedendo come si chiama il sito. Il sito è www.job-club.it, quindi www.jobclub.it. naturalmente la reazione immediata è come gratis, che si danno il loro tempo, la loro vita gratis, come cavolo è possibile? Quindi dopo l'informazione sul traffico ripartiamo con la domanda: come è possibile che sia da parte vostra gratis? E secondo, ci spiega invece il protocollo e l'esperienza realizzata con il Comune di Milano. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a parlare di questo progetto Job Club. Il sito è www.job-club.it, è una piattaforma che nasce dall'iniziativa solidale di 2 professionisti, Riccardo Maggiolo, che è qui con noi per parlarcene, e Nicola Giacconi, psicologo esperto di mercato del lavoro, per animare dal basso un'iniziativa volta a fornire alcune chiavi necessarie a coloro che non riescono a trovare lavoro. Avete sentito, se si formano gruppi territoriali, spero un certo numero, si può scaricare un manuale. Ci sono 10 incontri del gruppo che consentono pratiche, quindi sperimentate con dei risultati conseguenti attesi, per focalizzare e migliorare la propria capacità rispetto alla sfera individuale, meramente individuale, di ricerca di un nuovo lavoro. Eravamo arrivati al punto che delle diverse club, che sono la stima è di 300 job club aperti in tutta Italia, il progetto in sé per sé singolarmente più significativo è quello realizzato nel 2015-2016 con una sperimentazione con il Comune di Milano. Ripartiamo di qua, ma devi dare anche una risposta però, Riccardo, a chi ha chiesto come gratis. Sì, certo, volentieri, è una domanda che mi è stata fatta spesso, diciamo, poi qualcuno pensa che vendiamo pentole o gli facciamo, non so, fare contratti dell'Enel quando arrivano. No, in realtà si sostiene semplicemente dal fatto che i gruppi sono autogestiti, quindi non è che ci sia un trainer da pagare o qualcuno che va a coordinarli, almeno non necessariamente, oppure vengono ospitati da un ente locale che può essere pubblico oppure privato, che dice: faccio una bella cosa per il mio territorio, ospito questo gruppo. Come lo sosteniamo questa cosa? Ma io semplicemente ci rientro con l'indotto, ci sono rientrato con l'indotto fino adesso, quindi mi hanno chiamato da qualche parte a parlare, a fare degli incontri eccetera. Il punto è che il servizio in sé per adesso è molto poco costoso da mantenere, quindi la cosa che ci interessa, e mi interessa soprattutto a me, è creare una nuova cultura di lavoro e soprattutto aiutare tante persone che lo cercano male e in maniera depressiva e inefficace a riattivarsi in un progetto di medio e lungo periodo che fa la differenza. Anche poi ho letto che state pensando di costituire una rete di trainer certificati. No, lo stiamo già costituendo, che sono tutti professionisti sul territorio che dicono: guarda, anche a me interessa fare questo tipo di pratica, noi non retribuiamo loro. Loro non vengono retribuiti se non trovano un accordo privatamente con quelli che vogliono coordinare, ma possono essere retribuiti nel caso dall'ente sul territorio che li vuole ospitare o vuole ospitare un job club. E il Comune di Milano che cosa vi ha offerto? Il Comune di Milano, abbiamo fatto una collaborazione, 2 sperimentazioni. La prima all'inizio, alla fine dell'anno scorso, di 6 job club e una tra giugno e luglio di quest'anno per altri 12 job club, quindi anche in un periodo non proprio fortunatissimo della ricerca del lavoro, ha coinvolto 207 persone, quindi 18 job club in totale. I risultati certificati dal Comune di Milano sono stati i seguenti: 47% è tornato in lavoro in formazione in 2-3 mesi, cioè prima della fine del corso, diciamo così. Poi un 13% stimato, ma almeno sicuro 13% di autoimprenditorialità, cioè persone che hanno deciso poi di aprire una loro attività. E quindi 47 più 13 siamo al 60%. 60%, esatto. Comunque la cosa che a me piace dire più di tutto è, e che possono confermare anche gli enti che sul territorio Milano hanno ospitato i job club, che vanno dalle agenzie private sul lavoro ai sindacati, per dire, tutti quelli che hanno partecipato si sono riattivati nel mercato del lavoro, e tanto più che dagli utenti l'efficacia del metodo è stata rigiudicata nell'80% buona e ottima l'efficacia, mentre che i contenuti sono stati giudicati buoni e ottimi nel 90% dei casi. Un'altra serie di domande riguarda il fatto, ma se i componenti del gruppo in realtà hanno professionalità, esperienze precedenti nei posti di lavoro che sono venuti meno, ciascuno diverso dagli altri, come può esserci una metodologia? Il problema è che la gente non capisce che stiamo parlando di metodologia di ricerca. Bravissimo, no? Infatti prima che mi inondino il sito, che voglio dire, abbiamo anche le nostre scarse possibilità al momento, non è che ci si iscrive al sito, questo mi preme dirlo, e si aspetta a vedere che qualcuno trovi lavoro. No, non funziona così. Noi in Job Club non trova il lavoro a nessuno, ma aiuta le persone a trovare da sole il loro lavoro, rimettendole al centro del loro progetto di ricerca del lavoro. Perché funziona? Ci sono quattro motivi generalmente. Uno, che si esce dall'isolamento, dalla frustrazione della ricerca solitaria del lavoro, che come probabilmente quasi tutti sanno, perché tutti hanno avuto questa esperienza, è molto frustrante. Un secondo punto è che si cerca in maniera attiva e si impara un metodo, poi si cerca tramite i contatti, la rete sociale, che volente o nolente sono comunque, per il 70% più dei casi, dicono varie dall'Istat all'ISFOL, il modo per trovare lavoro. Attenzione, anche qui non stiamo parlando di raccomandazioni, ma di networking, c'è una differenza molto chiara, ma adesso qua non sto qua a dirimerla, anche se è la mia croce quasi ogni giorno. Beh, proprio in un secondo, una raccomandazione è quando io vado da Anna e dico: tu Anna assumi Paolo e io in cambio ti do dei soldi, ti do un appalto, oppure se non lo fai ti rigo la macchina. Se invece io presento Anna a Paolo perché penso che entrambi possono essere di aiuto gli uni agli altri, sto semplicemente facendo buona società. La terza, la quarta? La quarta invece è che tutto il metodo è centrato su far emergere il mercato del lavoro nascosto tramite l'autocandidatura, cioè si dice: tu non è che devi trovare un lavoro dall'oggi al domani, devi entrare in un'ottica di 2-3 mesi di medio-lungo periodo. È una logica proattiva comunque, quella peraltro delle politiche attive per il lavoro, che qui attualmente neanche la Jobs Act ci ha fatto vedere, anche se ce le ha promesse, vedremo. Io intanto rendo merito a Maggiolo, e Nicola Giaconi, che hanno avuto questa idea. Andate a vedere il sito se la cosa è di vostro interesse, perché credo moltissimo alla riattivazione dal basso per vincere la disperazione. Grazie ancora, continuate con la 24, appuntamento alle 8:20 con me domani mattina e con me Alessandro Milano, attenti a noi due.